Eccoci qua dunque, la nostra mattina che mattina di un giorno importante. Infatti è il giorno delle decisioni, insomma della grande riunione della BCE. Dico grande perché in realtà il perimetro è quello ovviamente ordinario, ma sono le aspettative molto forti. Dunque borse volatili, spread BTP Bund in forte discesa alla vigilia della riunione dunque della Banca Centrale Europea in programma oggi pomeriggio. Cosa dovrebbe accadere? Dovrebbe la BCE lanciare la strategia d'attacco contro la crisi del debito sovrano in Europa. Licenza bancaria, fondo salva stati, nuovo programma di acquisti di titolo di Stato, liquidità per le banche, aiuti diretti ai paesi in difficoltà e taglio dei tassi, i temi sul tappeto. Tutti i temi che vengono oggi affrontati, e qui cominciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, dai quotidiani. Il Sole dedica diverse pagine appunto di approfondimenti, di interviste su questa giornata particolare. Sole che peraltro, e qui arrivo davvero alla prima pagina, vi ricordo, continua l'iniziativa che viene segnalata nel taglio alto, l'enciclopedia del risparmio, dunque la lettera B, e si parla proprio tra l'altro di BOT e BTP, dunque l'esplorazione del tema degli investimenti dalla A alla Z, è l'enciclopedia del risparmio, la nuova iniziativa del Sole 24 Ore. Detto questo, però, l'apertura questa mattina parla di Piazzetta Cuccia, Fonsai Unipol, indagato Nagel. Dunque l'AD di Piazzetta Cuccia è interrogato per 6 ore dal PM Orsi sul presunto accordo segreto con i Ligresti. L'amministratore delegato di Mediobanca è dunque indagato per ostacolo all'autorità di vigilanza in concorso con Salvatore Ligresti. L'interrogatorio è durato 6 ore e è stato condotto dal sostituto procuratore Luigi Orsi. A innescare la svolta nell'inchiesta, spiega in prima pagina dunque il Sole 24 Ore, sulle attività, innescare la svolta dell'inchiesta sulle attività della famiglia Ligresti, è stata la scoperta del presunto accordo che sarebbe stato sottoscritto il 17 maggio da Nagel e dall'ingegnere di Paternò, accordo che Mediobanca smentisce. L'istituto dunque nega che Nagel abbia firmato accordi con i Ligresti, ma su richiesta di Ionella Ligresti avrebbe siglato esclusivamente per presa di conoscenza la fotocopia di un foglio di carta con le richieste della famiglia. Compatti, conclude l'introduzione appunto di questa mattina del Sole 24 Ore, compatti a difesa del manager e i soci di Mediobanca. Questo il tema per il Sole 24 Ore. Per Repubblica invece l'apertura è la politica, Bersani, Vendola, patto per il 2013, accordo tra i due partiti sulla prossima legislatura. Il leader di SEL dice: mi candido alle primarie, ma intanto la base dice no all'alleanza con l'UDC. Il terzo tema, che poi è presente ovviamente in tutte le prime pagine e che abbiamo citato in apertura, è quello della, appunto, da un lato della riunione della BCE e dall'altro del viaggio di trattativa di Mario Monti in Europa. Ieri la tappa delicata, finlandese. Per La Stampa il titolo di oggi è quell'avvertimento: Monti dice lo scudo può servirci se lo spread non si raffredda. L'idea di base è che in questo momento l'Italia non sembra avere bisogno di aiuti che potrebbero essere necessari forse per raffreddare lo spread. Ieri Monti a Helsinki, dove ha incontrato il premier finlandese Kaitanen, per convincerlo da un lato a dare l'ok al salvastati, ma anche per fare pressione sul, diciamo in senso lato, il mondo nordico, i leader della politica del nord Europa, appunto molto preoccupati e molto fermi sulle posizioni di tutela dei conti dei singoli stati a dispetto degli interessi collettivi europei, per convincerli anche a fare pressioni sul sistema economico e finanziario per sostenere i paesi europei in questa fase in maggiore difficoltà. Ecco dunque i grandi temi e poi naturalmente i giochi olimpici. L'abbiamo citato in apertura, abbiamo sentito poco fa il diario olimpico di Dario Ricci, una bellissima fotografia che ricorre sulle prime pagine di oggi, è l'esultanza di Molmenti dal Messaggero, uno per tutti, capolavoro di Molmenti, il terzo oro arriva dalla canoa e noi invece, per noi, arriva il meteo e torniamo tra poco. In primo piano. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, l'Italia, lo scudo, se serve, soprattutto se lo spread non cala. E così il Corriere della Sera questa mattina apre con Monti il virgolettato del potrà servirci lo scudo, mentre prosegue il cosiddetto duello con Berlino sul fondo salva stati. Oggi le scelte della BCE, i paletti della Bundesbank. Ci siamo lasciati almeno idealmente nel percorso di Monti ieri in Finlandia. Credo abbiate visto le immagini così rilassanti del paesaggio dei mille e mille laghi finlandesi. Meno rilassante deve essere stato invece il confronto tra il premier italiano, il primo ministro, invece il suo omologo finlandese, Jyrki Kaitanen, 40 anni primo ministro. Oggi è protagonista del colloquio a firma di Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore. Insomma, lo ribadisce nell'intervista. Pelosi dice: le parole che vengono usate continuamente qui sono rules and fair, dunque regole e leale, le regole, la lealtà. La parola data, queste latitudini e con queste tradizioni religiose, qualcosa di sacro e inviolabile, così come la fiducia che il mercato da solo troverà la forza per premiare gli sforzi dei paesi più virtuosi. E dunque Kaitanen che dice: non è vero che siamo euroscettici, siamo impegnati nell'integrazione, ma sulla base degli accordi sottoscritti. Insomma, l'Olanda, come la Finlandia, come molte posizioni all'interno del mondo economico e finanziario tedesco, sono a loro volta sotto pressione per quella che viene da molti percepita come una forma di rigidità che sconfina nell'egoismo. I finlandesi, per voce del loro appunto primo ministro, rigettano questa posizione e dice Kaitanen: dobbiamo pensare all'Unione Europea come a una famiglia, se un membro della famiglia rompe le regole ferisce anche gli altri, ecco perché è importante seguire le regole. Una posizione che viene espressa, ripeto, poi si sviluppa nell'intervista che trovate questa mattina sul Sole 24 Ore. Ma a proposito di questo aspetto e anche, diciamo, di chi paga i conti all'interno della famiglia quando le regole vengono rotte, sicuramente uno dei, diciamo, dei punti classici di un'idea che si è formata nel corso di questi mesi è che a pagare dunque i debiti, a pagare le mancanze dei membri del sud della famiglia siano poi sempre gli stessi. Bene, Alessandro Merli questa mattina scrive un articolo che appunto mette in discussione proprio il concetto stesso, l'idea stessa che siano tedeschi, olandesi, finlandesi a pagare il conto di questa crisi. Aiuti, l'Italia paga di più, il primo contribuente per peso sul debito pubblico, la Germania solo terza. Dalla lettura della stampa tedesca sembrerebbe che la Germania stia sopportando tutto il peso dei salvataggi dei paesi in difficoltà nell'area dell'euro e che questi vogliano solo mettere le mani sui soldi del contribuente tedesco per poter continuare a fare la bella vita. Questo è una immagine molto chiara e anche più volte evocata in queste settimane. Dunque, oltre a questo c'è, diciamo, l'aggravante che oltre a voler continuare a fare la bella vita ci sia anche nessuna intenzione, volontà di fare i compiti a casa o, tanto per parafrasare Kaitanen, di fare quello sforzo all'interno della famiglia poi di rimettersi in riga. Bene, questa percezione è falsa per tre ragioni, sostiene il capo economista di Unicredit Erik Nielsen, che di recente ha pubblicato uno studio sulle prospettive dell'Eurozona nella seconda metà dell'anno. Prima di tutto, non si tratta di regali ma di prestiti. In secondo luogo, il contribuente principale alle operazioni di salvataggio, in base a dati del Fondo Monetario in termini di accresciuto peso sul debito pubblico, non è la Germania, ma l'Italia, seguita dalla Spagna. Infine, i paesi destinatari stanno comunque compiendo uno sforzo notevole per aggiustare i propri conti. Insomma, un'accusa complessivamente ingiustificata. Il primo elemento, poi, è che nessun contribuente europeo ha finora fornito soldi a fondo perduto ai paesi in crisi. Questi ribadisce appunto Erik Nielsen nell'articolo a firma di Alessandro Merli da Francoforte. Questi non ricevono dei doni ma dei prestiti sui quali pagano degli interessi, e dunque persino il quotidiano popolare Bild, uno dei più accaniti nella difesa dell'interesse dei contribuenti della Germania, riconosce finalmente che le casse di Berlino stanno anzi beneficiando della crisi, in quanto i rendimenti che il governo tedesco paga sul debito pubblico sono molto più bassi del normale. Questo è un aspetto, uno dei, appunto, dei fattori, degli elementi di questa crisi. Ieri abbiamo parlato a lungo della fiducia, della percezione. Ecco, questo sicuramente entra in questo capitolo, quello che è la costruzione anche di un'immagine pubblica collettiva, per cui alcuni pagano, altri spendono, ma i dati in realtà non dicono questo. Eurozona, allora, in attesa di questa giornata, noi ovviamente vi racconteremo nel corso di tutto il nostro palinsesto quotidiano l'attesa, e poi contiamo di raccontarvi soprattutto le decisioni e l'effetto che le decisioni della riunione della Banca Centrale Europea avrà sui mercati. Intanto è sui quotidiani di questa mattina tempo di interviste e riflessioni. Sulla Stampa: l'Eurozona è molto solida ma il paese non è in sicurezza, parla la D di Intesa San Paolo Cucchiani, dice: serve un governo Monti bis, i mercati ci chiedono ancora liberalizzazione e vendite di bene. L'Eurozona gode di miglior salute rispetto a quello che molti osservatori e operatori finanziari internazionali pensano, tuttavia l'Italia non è ancora in sicurezza. L'illusione che una maggiore stabilità dell'euro e un calo dei tassi di interesse coincida con la tranquillità del nostro paese potrebbe rivelarsi grave e assai pericolosa. Così la D di Intesa San Paolo, Enrico Tommaso Cucchiani, avverte che il sollievo di mezza estate non può trasformarsi in un'irrazionale euforia. Torniamo all'uscita dal tunnel di ieri, che è molto la frase di Mario Monti, ovviamente. E infatti Francesco Manacorda gli chiede: allora Monti vede una luce in fondo al tunnel, non è presto? Gli chiede, e lui risponde: penso che abbia voluto esprimere la soddisfazione per una maggiore consapevolezza condivisa tra i leader europei di problemi e soluzioni. Certo, permangono squilibri che non si risolvono magicamente. No, nessuna soluzione magica, ma chissà, forse un percorso che passa anche per la Finlandia, che questa mattina, come abbiamo sentito, sente l'esigenza di ribadire l'impegno alla complessità del progetto europeo, e esprimendo in fondo l'immagine della famiglia europea, fa qualcosa che forse, diciamo, sul piano emotivo anche un passo in avanti per la soluzione della crisi, che abbiamo visto quante volte in questi giorni, è anche al di là, appunto, di tutti gli elementi di sostanza e al di là di tutti i dati, è anche una questione di percezione, di emotività europea in questo caso. Bene, riprendiamo intanto prima di affrontare altri argomenti con gli approfondimenti, i titoli. Il Messaggero, vi ho detto, Monti, battaglia sullo scudo, tensione con Berlino, mentre per il Fatto Quotidiano la scelta dell'apertura è tutta interna. Vendola sceglie Casini, Di Pietro furioso. Dunque la politica italiana, leader Sel incontra Bersani, molla l'IDV a cui solo un mese e mezzo fa giurava amore eterno. E poi scrive il Fatto, subissato di critiche sul web, fa una mezza retromarcia. L'ex PM risponde, lui con l'UDC non ci voglio credere. E questo per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Per il Foglio Quotidiano invece il tema della politica diventa quel Bersani che tradisce il riformismo, un PD, un partito irriformabile del Novecento, una lettera dall'America di un gruppo di economisti, in questo caso sono Sandro Brusco, Michele Boldrin, che chiede e auspica nell'ambito di un appello liberista uno stop al declino dell'Italia, e si rivolgono dunque al quello che definiscono il compagno che resta nel PD. Vediamo ancora prime pagine. La Padania, il governo licenzia al nord e assume 150.000 immigrati fugati, dice Monti, si affretta a varare una sanatoria mentre non fa nulla per aiutare i nostri operai che perdono il posto, e per le aziende costrette a chiudere perché lo Stato non paga i propri debiti. Questa la prima della Padania, che poi denuncia anche l'ennesima fiducia di ieri sul decreto terremoto. Il Carroccio, dice il giornale appunto della Lega, non partecipa al voto, e a sfondo, anzi a coprire parzialmente una delle durissime immagini degli effetti del terremoto di 2 mesi fa in Emilia, titola l'Emilia tradita. Ancora, lo scudo potrebbe servire per il secolo XIX, quindi il tema è lo stesso di molti dei giornali in edicola. E poi c'è chi scrive invece come Libero, rifondato il PC. Bersani e Vendola si uniscono per dar vita al polo della speranza. Il loro programma: più tasse, più spesa, più manette, più diritti gay, immigrati. Questa la scelta di Libero questa mattina. Eccoci qua. Allora, prima di riprendere e leggere qualche approfondimento, magari ripartendo proprio dalla politica e dal punto su queste manovre di mezza estate, direi che sentiamo insieme, sono le 7:45 in questo istante, sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane e poi torniamo per l'ultima parte della rassegna stampa. Piccoli segnali di mezza estate. Sulla legge elettorale si comincia a discutere tra PDL e PD in modo meno astratto, così non si dirà che i partiti prima di andare in vacanza non abbiano voluto ascoltare l'appello del capo dello Stato. Il punto di Stefano Folli questa mattina sul Sole 24 Ore, in questa estate dei piccoli passi nell'anno senza semestre bianco. Si intende, scrive Folli, che una qualche legge, benché vada, non vedrà la luce prima dell'autunno inoltrato. In un primo tempo occorre che si realizzi l'accordo, poi che la riforma passi in commissione, poi che superi il vaglio dell'aula, dove gli scontenti, da Di Pietro alla Lega, già si preparano alla guerra di trincea. Insomma, vedremo. Così come da settembre in poi si capirà meglio se la tessitura di Bersani darà un risultato utile o se si rivelerà un gioco a somma zero. Per ora è evidente, e non da oggi, il desiderio di coinvolgere Vendola escludendo Di Pietro. Il presidente della Puglia è in sostanza d'accordo, però deve fare i conti con la resistenza della sua base elettorale, alquanto gelida di fronte alla prospettiva di un patto di governo con i centristi di Casini. È la storia che si ripete, con l'aggravante che Bersani e i suoi non possono più sbagliare una mossa nel creare una maggioranza stabile in vista della nuova legislatura. E a proposito di politica, vi segnalo un'intervista a Raffaele Lombardo a cura di Amedeo La Mattina sulla stampa. Lombardo che dunque si dimette e che dice: darò il mio contributo alla politica siciliana. Durante la mia presidenza non c'è stata una sola assunzione ingiustificata. Questo è uno dei punti che l'ex governatore tiene a chiarire nell'intervista. Tutte le persone nominate negli enti ospedalieri per le cariche dirigenziali della ASL andavano nominate perché bisognava riempire caselle lasciate vuote in seguito a dimissioni o pensionamenti. E aggiunge: se non l'avessi fatto, avrei commesso il reato di omissione d'atti d'ufficio, tutti targati Lombardo MPA comunque. E lui sbotta, dice ancora con questa storia del clientelismo: non facciamo gli ingenui o gli ipocriti, tutti facevano segnalazione. Quando dico tutti, dico proprio tutti, deputati, senatori di tutti i partiti, nessuno escluso. Le dico di più, le segnalazioni sono arrivate anche da fuori, dal mondo, fuori dal mondo politico, dall'imprenditoria, forze dell'ordine, chiesa. E conclude: non ci trovo nulla di scandaloso, nulla di scandaloso a segnalare un bravo professionista. In fondo anche lei, dice rivolgendosi al collega della stampa, poteva segnalarmi una persona meritevole. Qui adesso mi vogliono far passare per il diavolo, mentre gli altri sono tutti delle verginelle. E tra le, diciamo, tra I punti chiave dell'intervista a Raffaele Lombardo ci sono due passaggi che riguardano Casini. Quando gli viene chiesta oggi qual è la sua più grande amarezza, dice: intanto l'accusa di collusione mafiosa che dimostrerò falsa, poi c'è un'amarezza personale dovuta al tradimento degli amici. Si riferisce in particolare a Nicola Leanza, diventato segretario capogruppo regionale e ora tornato capogruppo regionale, naturalmente con diciamo in forza all'amministrazione di Raffaele Lombardo, ora ritornato tra le braccia di Casini e di un partito, dice, che vuole mettere gli artigli sulla Sicilia. E aggiunge: lui e i suoi alleati, quindi Casini, vogliono scambiare la Sicilia con i petrolieri e i grandi imprenditori. 7:50 minuti, voglio trovare qualche momento per parlare invece di una storia che è completamente sparita dalle prime, non solo dei quotidiani dell'informazione, che riguarda gli italiani, i militari italiani, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Li ricordate? Sei mesi fa l'India, l'uccisione in una operazione di presunta operazione, insomma, di tutela e missione antipirateria. Bene, i militari italiani ormai sono quasi sei mesi, alcuni dei quali, quattro, tre dei quali, vivono in un hotel di Kochi nel sud dell'India. E Maurizio Caprara ci racconta che la loro vita è fatta di ginnastica, attrezzi, tanta posta, le giornate dei due marò. Insomma, che fine hanno fatto i marò, mentre le cronache hanno meno motivi per occuparsi di loro, come passano le loro giornate? Beh, loro possono muoversi dentro Kochi, possono appunto ricevere posta, molta, si tengono in contatto con amici e parenti e vengono sostenuti nella attesa da esponenti del governo e dei servizi e delle forze armate italiane. Già, perché i soldati, lo ricordiamo, ufficialmente sono in servizio per le forze armate italiane, non hanno violato regole e quindi vengono considerati in missione. Il tutto nuova aspettando cosa? Aspettando per adesso l'8 agosto, quando il caso sarà discusso di fronte all'Alta Corte di Nuova Delhi, la Corte Suprema, che aprirà il dibattito su una richiesta italiana: sospendere il processo penale sulla morte dei due pescatori avviato in Kerala. Insomma, una vicenda che si trascina da mesi, che anche questo appuntamento dell'8 agosto non sembra sarà in grado di dipanare, ma intanto così abbiamo aperto una breve finestra su questa vicenda. Da segnalare ancora tra gli spunti di giornata il reportage richiamato nella prima del Corriere della Sera da Aleppo di Lorenzo Cremonesi, la battaglia di Aleppo, i cadaveri nella moschea. Scrive Cremonese: scrivo che sono le 3 del pomeriggio, tutto intorno è pieno di morti, giunge voce che siano una trentina, comprese donne e bambine, decine i feriti, tanti ancora intrappolati nelle proprie abitazioni. Un colpo di mortaio scoppiato verso le 12 presso la porta principale ha causato una dozzina di vittime. Aleppo, nel nord della Siria, grande città, principale città fino a qualche tempo fa dell'economia siriana, non lontano dal confine doppio a occidente e a settentrione con la Turchia, è appunto uno dei teatri principali di questa guerra fratricida. E Cremonesi si esprime anche su uno dei punti che vengono spesso affrontati, insomma, chi combatte, chi partecipa a questa rivolta. Lui scrive: non c'è Al-Qaeda qui, non ci sono fratelli musulmani, solo una popolazione che si difende a mani nude e domanda giustizia. Ovvio che chiedono la protezione di Allah, ovvio che si rivolgono a Dio, come questa società permeata di religione ha sempre fatto, ma non colgo segni particolari di guerra di religione. Ogni momento mi viene offerto aiuto, sono contenti che ci sia uno straniero a raccontare e sono determinati a combattere, e per questo andranno avanti. Eccoci qua, poi abbiamo un minuto, mi conferma Peter Bescapè in regia per appunto quest'ultima parte. E allora, due titoli dallo sport, ma mica tanto sport: per 70 milioni i cinesi acquistano il 15% dell'Inter, e proprio su la ricchezza e le capacità dunque dei cinesi oggi un approfondimento sui nuovi ricchi curato dalla Stampa, che racconta di 1 milione di milionari. I cinesi sono i più ricchi, ma sognano di fuggire. Ve lo segnalo soltanto, ecco, un ingresso in una grande società sportiva italiana, forse un segnale per il presente che già c'è e che dipingerà probabilmente sempre di più appunto il nostro tempo, la presenza cinese. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo alle 8:20, ripartiamo da Londra che finalmente festeggia gli ori. A più tardi.